e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Scindeite, assani, tomuraino, yuki ga furu. Buongiorno Deborah, preparati. Buongiorno. Che ti porto in Giappone. Via, ah, con le valigie. Dal andiamo. Nostro ascoltatore, quello super ordinato di ieri, sei l'amico che ci ha scritto da là, sì, che dice: non appena non trovo qualcosa che sono convinto che sia in un mio cassetto, vado in tilt. Salutiamolo, non mi ricordo come si chiama, ma adesso lo ripesco. Ti piace, allora, il Giappone? Mi piace, ci sono anche, tra l'altro, stamattina. Con me verresti in capo al mondo. Nella stagione verità. Della fioritura dei ciliegi, dai. Però, quindi ti dico già che è intorno ad aprile. Mm-hmm. Però c'è anche una notizia finanziaria stamattina, magari la approfondisco dopo nelle notizie di borsa. Però pare che il Giappone abbia superato la Cina. Non so se questa notizia stamattina ti farà cambiare la tua visione, appunto, della giornata, ma ha superato la Cina come detentore di titoli di Stato americani. Però la giornata mi cambia completamente. Svoltata completamente. Senti, torniamo al nostro Giappone, perché, perché ti volevo portare lì, per, non solo per visitare questo paese, ma anche per giocare, perché ieri ho letto una notizia curiosa che sentiamo. Voglio condividere con te e naturalmente con i nostri ascoltatori. Infatti il fenomeno della settimana che ha saputo mandare in tilt i social network è stata la finale del più importante campionato di morra cinese. Io non so giocare a morra, per cui non so proprio. Beh, avrai un gioco che facevi da bambina. Io lo facevo, quello sasso, carta, forbice. C'era sempre questo sasso con, cioè, un sacco. Cioè in Giappone giocano alla morra cinese. Esatto, tu non ci giocavi, però potete sempre, vabbè, impararlo. È come dire in Italia giocano alla morra africana e quindi questo manda in tilt. Ma, amore mio, ma che sono depravazioni strani. Hanno questi qua? Andiamo alla rassegna stampa. Andiamo, dai. Che è meglio. No, ma non chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il loro gioco d'infanzia? Ma tu hai detto subito che la morra non ci giocavi, nascondino. Cosa facciamo? No, Monopoli è stato un grande momento della mia vita con le mie cugine Emanuela e Stefania, che saluto. E allora via partite. Con i giochi d'infanzia. E invece andiamo anche al via con le notizie finanziarie, dopo questa apertura come sempre un po' per regalarvi qualche istante di allegria. Allora cominciamo con la borsa, che questa mattina è poco mossa fra gli indici europei. Anche Milano era ripartita bene, mantiene un trend al rialzo, adesso un po' più stemperato rispetto all'avvio, più 0,06% sul FTSE MIB. Abbiamo meno 0,18% a Parigi, meno 0,05% a Francoforte, Londra meno 0,06%. Si mantiene schiacciato ai minimi da 14 anni a questa parte l'euro rispetto al dollaro, il rapporto di cambio adesso è 1,0437. A parte il fatto che il Giappone è diventato il maggior detentore di treasury americani, di titoli di Stato americani, appunto scavalcando la Cina, questo è un tema molto rilevante per le dinamiche finanziarie internazionali. Andando ai temi finanziari invece di Milano, vi segnalo che in questo momento il miglior titolo di Milano è Generali, guadagna il 2,82%, è arrivata a guadagnare quasi il 5%. C'è una notizia che sta circolando tra gli operatori, secondo la quale il gruppo tedesco Allianz sarebbe interessato alle attività francesi di Generali, quindi Generali France, e questo ha messo un po' il turbo al titolo. Bene anche Salvatore Ferragamo, più 2,30, Telecom Italia più 1,83, che invece si muove sulla speculazione legata alla scalata ostile che Vivendi sta provando su Mediaset, Saipem più 1,51% e poi Monte dei Paschi più 1,16%. Qua abbiamo veramente tantissime notizie, le ultime importanti, e ricordo che per tutti gli interessati noi abbiamo dedicato un'apposita trasmissione nella nostra puntata, appunto, di Cuore e Denari lunedì scorso. La Consob ieri sera ha dato il via libera all'offerta volontaria di conversione dei bond subordinati, che riguarda 40.000 risparmiatori italiani. L'autorizzazione, appunto, al supplemento del prospetto informativo è arrivata proprio ieri sera tardi. La conversione è possibile farla già da stamattina dalle 9 ed è possibile fino alle 14 del 21 dicembre. La conversione e l'aumento di capitale da 5 miliardi, che pure ieri ha avuto il via libera da parte di Banca Monte dei Paschi, devono portare nelle casse di Siena 5 miliardi entro il prossimo 31 dicembre. In caso di insuccesso ci sarà la nazionalizzazione della banca, per cui saranno giornate caldissime per le vicende, appunto, di uno dei più grandi gruppi bancari italiani. Per quello che riguarda Mediaset invece, oggi in borsa è leggermente negativa, di nuovo meno 0,8%. Per quello che riguarda le altre notizie finanziarie, scade oggi, quindi avete proprio ancora pochi minuti di tempo, il termine per pagare il saldo di IMU e TASI, l'immancabile appuntamento con i tributi comunali sugli immobili. Noi ne abbiamo già parlato a cuore denari, quest'anno il calcolo del saldo dovrebbe essere stato più semplice del passato perché in sede di acconto erano già note le aliquote 2016, considerata la scadenza al 30 aprile per l'adozione delle delibere comunali. L'importo del saldo quindi dovrebbe essere la metà dell'importo annuale. Per tutti i dubbi di chi si fosse ridotto proprio l'ultimo giorno, vi ricordiamo che la nostra che Cuore Denari si è occupato appunto proprio settimana scorsa di questo argomento. Stiamo condividendo il podcast sui social network e poi c'è anche il calcolatore online sul sito del Sole 24 Ore. Parliamo di auto perché è arrivata, Nicoletta, senti un po', attenzione a chi non si comporta in maniera tanto trasparente, una bella sanzione da 3 milioni di euro per l'ACI, l'Automobile Club Italia, da parte appunto dell'Antitrust, l'autorità garante del mercato, perché l'ACI non avrebbe rispettato il codice del consumo che sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento come carte di credito o bancomat. Quindi tu vuoi pagare il bollo auto utilizzando la carta, l'ACI applicava questo sovrapprezzo, l'Antitrust ha detto no, basta con queste pratiche. E quindi, insomma, tema interessante. Vedremo adesso se questi balzelli verranno aboliti, ma sempre a proposito di auto e di chi circola, c'è anche un'altra notizia che ho già deciso di affrontare lunedì a Cuore Denari, quindi dai, anticipamela. Questa anticipazione mondiale. L'Antitrust ha avviato, sono attivissimi in queste ore presso l'autorità garante della concorrenza del mercato, un nuovo ennesimo procedimento nei confronti delle principali compagnie assicurative attive in Italia nell'offerta delle polizze RC Auto. C'è un'ipotesi di un accordo che limiterebbe la concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi alcune società avrebbero fatto cartello per mantenere inalterati i prezzi di mercato, quindi se fanno cartello certo, non sono prezzi di mercato, evidentemente noi vogliamo vederci più chiaro e lunedì convochiamo compagnie di assicurazione e associazione dei consumatori. Lasciamo un po' le, tra virgolette, proprio amenità finanziarie. Ti do questa bella notizia alla Cuore Denari, Nicoletta. Mi è piaciuta molto e io voglio segnalarle queste buone pratiche. No, tra l'altro a proposito dell'RC Auto, vedo che c'è una dichiarazione proprio adesso dalle agenzie da parte della presidente dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione Italiane, la dottoressa Maria Bianca Farina, che dice le compagnie assicurative presenti sul mercato dell'RC Auto non hanno messo in piedi un cartello per un aumento dei prezzi. Bene, c'è anche appunto questa considerazione che aggiunge carne al fuoco, per cui a maggior ragione lunedì noi vorremmo vederci più chiaro. Saremo qua, pronti. Allora, qual è la notizia alla Cuore Denari che voglio condividere con Nicoletta, con tutti i nostri ascoltatori? Ha preso il via ieri il servizio di asilo nido destinato ai piccoli pazienti di fascia d'età compresa fra i 6 e i 36 mesi. La commentavamo. Parte piccolo. Proprio dalla città mia e di Marco. Esatto. Del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. È un progetto che è stato ideato e sostenuto da una grande banca italiana, Banca Intesa San Paolo, primo nel suo genere in Italia. L'obiettivo è quello di aiutare i bambini a superare l'isolamento sociale e psicologico che deriva dalla malattia e dalla lungodegenza in un ambiente il più possibile sereno, seguiti da educatori specializzati e qualificati. Sostegno ai bambini naturalmente, ma anche alle famiglie che devono vivere situazioni appunto così delicate e problematiche. Il progetto nasce dall'esperienza degli asili nido aziendali di questa banca italiana, che viene considerata una delle eccellenze del sistema di welfare appunto della banca. L'obiettivo è anche quello di attivare il servizio presso altri ospedali pediatrici in Italia, a Milano, a Firenze e Napoli, città dove peraltro hanno sede gli altri asili nido aziendali. E quindi, insomma, questa è una buona notizia che ci piaceva dare. E non solo, sempre a proposito di welfare aziendale, noi insomma quando le notiamo queste buone pratiche ci piace proprio segnalarle, perché vorremmo che tutte le aziende italiane, naturalmente noi ci riferiamo a queste, potessero essere in grado e nelle condizioni di poter dare questi servizi ai propri lavoratori. Allora, 14 settimane a retribuzione piena per ogni dipendente che con alle spalle almeno 12 mesi di servizio faccia domanda per il congedo di maternità o di adozione, e 5 giorni per i congedi di paternità o di convivenza, sempre senza alcuna decortazione dello stipendio. questo benefit lo riconosce purtroppo non una società italiana, ma una società francese che è Kering. È il polo mondiale in realtà del lusso, cui fanno capo marchi del calibro di Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta, che ha varato le nuove linee guida sui congedi parentali in linea con la Convenzione 183 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Linee guida sui congedi parentali, appunto, che sono attivi dal 1 gennaio, saranno attivi appunto dal 1 gennaio 2017. Quindi lo scopo di queste nuove misure di welfare è quello, dice l'azienda, di promuovere un maggiore equilibrio fra lavoro e vita privata, stabilendo questo nuovo standard. E allora speriamo che anche in Italia si ampli la rete delle aziende capaci di mettere a disposizione dei propri dipendenti appunto servizi di questo tipo. Noi già nelle scorse settimane avevamo segnalato l'iniziativa di una compagnia di assicurazione molto grande che è AXA e che da tempo si distingue appunto per iniziative di questo genere. Una bella notizia che si collega bene con quello che sarà l'approfondimento dei denari di oggi, lo anticipo velocemente: parleremo della possibilità delle ferie solidali, cioè la possibilità di cedere parte delle proprie ferie ad un collega, ad esempio perché deve occuparsi di un figlio malato. C'è una storia bellissima di una mamma di Marostica che ha avuto dai suoi colleghi un regalo di Natale davvero speciale che ha commosso l'Italia. C'è il traffico, torniamo tra pochissimo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Cuore e denari. Parliamoci da uomini. Il pericolo di inquinamento dell'aria delle grandi città è forte. Abbiamo le analisi. La situazione è grave. Se non la risolviamo, anche le nostre città saranno soffocate dallo smog. Così scriveva Italo Calvino nel racconto La nuvola di smog. Siamo nel 1958, quindi sono passati 58 anni e la soluzione sembra ancora lontana. Si è fatto, ma ancora molto c'è da fare, soprattutto i tempi sembrano maledettamente lunghi. Ad esempio, la nuova direttiva dell'Unione Europea, che fissa i limiti più severi su 5 inquinanti atmosferici, di cui in questi giorni abbiamo sentito sempre più parlare, sarà pubblicata sulla Gazzetta per entrare poi in vigore alla fine di quest'anno, quindi il 31 dicembre 2016. Ma gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 30 giugno del 2018, quindi fra 2 anni, e produrre un programma contro l'inquinamento atmosferico nazionale entro il 2019. Insomma, ne passerà d'aria nei nostri polmoni, per parafrasare un vecchio proverbio, ma nel frattempo che cosa stiamo respirando? Qual è la qualità dell'aria? Raccontatecelo anche voi al nostro numero verde 800 24 00 24 via WhatsApp, scriveteci una mail. Vogliamo invitarvi a diventare un po' inviati per ricevere anche a casa il kit dell'inviato. Basterebbe anche segnalare delle belle iniziative che sono vicino, certo, a voi, che conoscete. Qualche bravo sindaco che ha così pensato a qualcosa di speciale. Esatto, e allora però noi abbiamo il nostro esperto che è in linea, il dottor Mauro Mocci, medico IS dell'Associazione Medici per l'Ambiente, che è tornato a trovarci, puntuale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, come siamo? Come andiamo, dottor Mocci? Da mercoledì è cambiato qualcosa? Perché Non molto. Noi i dati li abbiamo sempre un po' in ritardo, quindi dei giorni precedenti non è cambiato nulla, e le previsioni a brevissimo, oggi e domani e dopodomani, non ci dicono niente di buono. E poi c'è Sirte, poi ho letto che dal lunedì arrivare, 19 arriverà. E dovrebbe dare una pulita, però le piccole piogge che ci sono state, per esempio l'ascoltatore che diceva a Firenze stava piovendo, purtroppo non ha sortito nessun effetto di miglioramento, tant'è che le 3 città che ho preso in esame oggi, tra queste c'è anche Firenze, Firenze le diamo un rosso perché sono giorni che supera Firenze e la Toscana, quella della Toscana, che superano i livelli consentiti dalla legge. L'altra città, perché il nord è molto peggio del sud, l'altra città che merita un rosso purtroppo è Milano, e voi siete lì e quindi sapete, perché anche lì i livelli continuano ad essere superiori ai limiti consentiti di legge. La città che invece voglio dare un verde, perché altrimenti ci rattristeremmo un po' troppo, è Palermo. Palermo, il sud gode di vantaggi dal punto di vista climatico, di venti, e Palermo oggi ha un verde. Quindi diciamo, la situazione però non sta migliorando in generale. Aspettiamo queste ondate. Io oggi mi trovo a Londra. Sì, e, Fortunello. E a Londra hanno preso delle iniziative, ma non temporanee come si fa da noi, i giorni si ferma quel giorno, quell'altro giorno. No, c'è un'area, una vastissima area, è la cosiddetta zona a basse emissioni, la low emission zone, nella quale non possono circolare, ma non per un giorno, ma per tutto l'anno, nelle 24 ore, alcuni tipi di autovetture, e in modo particolare i diesel di vecchia data. E allora, dentro Londra di solito si deve circolare macchine nuove, tutti si chiedono ma come mai? Perché è vietato. E l'Euro 1, Euro 2, Euro 3, soprattutto pullmini, mezzi, coach, mezzi di trasporto, non possono andare. E questa è una delle soluzioni che hanno trovato qui a Londra, a parte il vantaggio che loro hanno con la metropolitana, che da noi dovrebbe i mezzi pubblici, i trasporti pubblici, quello che diciamo sempre, forse sono. E Londra oggi ha una situazione che potremmo definirla un arancione, nonostante non ci siano piogge. Ma dottor Mocci, anche noi abbiamo un po' degli esempi positivi, almeno dal 10° rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle prime 50 città italiane, risulta che Milano è una città ecomobile grazie al sharing mobility, e poi c'è Firenze, che a cui lei ha dato il rosso, che primeggia invece per la diffusione di veicoli 100% elettrici. Insomma, un po' di qualche cosa si sta muovendo. Ma è su questa via che bisogna andare, perché altrimenti non usciamo. È sulla via dell'elettrico all'interno delle grandi città, elettrico ovviamente alimentato, prodotto da fonti rinnovabili, e non ci stancheremo mai di dirlo, perché se noi carichiamo le auto elettriche bruciando combustibili fossili, sposteremo l'inquinamento ma non risolveremo il problema. Quindi auto elettriche possibilmente con energia prodotta da fonti rinnovabili, e trasporti pubblici ovviamente efficienti. È un'altra iniziativa che hanno fatto, trasformazione che hanno fatto qui, facilitazione per chi trasforma le macchine in gas perché consumano un po' meno, e quindi delle iniziative che potrebbero essere fatte anche da noi, ma a parecchi comuni le stanno già facendo, mettendo in atto, e Palermo è una di queste, ma anche le aree, chiudere le aree al traffico, ma perennemente, non solo quei giorni in cui si superano i livelli. Non servono nemmeno le domeniche, le cosiddette domeniche ecologiche. Purtroppo servono a poco, perché il particolato rimane lì. Certo. Già il solo scorrimento. Quindi bisogna prendere dei provvedimenti, perché danno... scelte politiche a lungo termine, che possano dare delle garanzie, perché altrimenti così ogni anno arriveremo a questo punto. Ma noi, e cominceremo. E noi speriamo infatti, dottor Mocci, di sentirci, ma per altre cose. Ma noi continueremo a monitorare la qualità dell'aria e provare anche a dare dei consigli ai nostri ascoltatori. E oggi per farlo abbiamo invitato il dottor Attilio Speciani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Speciani, io sbirciando sul suo blog ho letto un bellissimo articolo su Eurosalus in cui lei dava dei suggerimenti alimentari per in qualche modo contrastare o proteggerci dai danni dell'inquinamento, citando anche un lavoro molto interessante su una semplice integrazione con broccoli per i giovani fumatori. Tanto che esatto, con esatto, Laura ha detto broccoliamo, no? Ecco. Esatto. Ecco, dottor Speciani. Quindi questa è la soluzione del cavolo, come si dice, no? Per cui cavolo, broccoli, rapanelli, altre brassicacee, le crucifere, ma il broccoletto, come a Roma lo chiamano, il broccolo, è di fatto una delle sostanze che aiuta a rimuovere i particolati che entrano nei nostri polmoni. Cioè c'è proprio questa capacità della cellula come di inglobare, stimolata dal broccolo e dal brassicace, di inglobare le sostanze tossiche, eventualmente metalli pesanti che si depositano sulla superficie delle vie respiratorie, eccetera, e di avviarli alla loro eliminazione. Per cui, al di là di quelli che sono integratori specifici, che hanno dentro il broccolo più un po' di zinco, beta-glucani, altre cose che sono degli elementi positivi, io credo che oggi, proprio perché non possiamo fare come diceva Mocci prima, non possiamo svegliarci al mattino improvvisamente cambiare la decisione politica globale, però nel nostro singolo, per i nostri bambini, per noi stessi, vivendo purtroppo. Lui citava Londra, anch'io ero a Londra 2 giorni fa e, ma e adesso c'era... dobbiamo andare anche noi, van tutti, no, a Londra, io non lo so, ma per il mare vicino c'è il vento, non vale, qui a Milano non c'è niente, non c'è il mare. Ecco, noi siamo proprio in una conca, in una... Esatto. Allora andiamo di broccoli e dottor Speciani, anticipiamo che per tutta la prossima settimana il dottor Speciani ci darà dei suggerimenti, delle pillole alimentari prenatalizie. Grazie dottor Speciani, grazie al dottor grazie Mocci. Grazie a voi, a prestissimo. Vogliamo, perché sennò Paolo ci taglia, sono le 55:50, quindi ancora possiamo dire che ascoltiamo insieme il GR, poi torniamo per parlare di questa bella storia che di sembra... ferie solidali. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13:30 con Giovani Talenti. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. State ascoltando un programma offerto da... Aceto balsamico di Modena del Duca. Per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Ogni giorno diventa un regalo perché sai che poi non ci sarà più. Ho capito che il tempo era prezioso e non riuscivo a conciliare il lavoro con Nicole e ho dovuto fare la scelta d'amore di chiedere all'azienda di entrare in aspettativa perché non avevo altre possibilità. Allora, ha suscitato grande commozione non solo tra di noi qui a Cuore Denari, ma tra tutti coloro che hanno avuto modo di venire a conoscenza di questa storia, appunto, la storia di questa mamma di Marostica che per prendersi cura della sua bambina, colpita da una malattia degenerativa, dopo che per anni aveva dovuto dividersi fra lavoro e la cura di sua figlia, avendo terminato tutte le ferie e tutti i permessi possibili al lavoro, le era rimasta l'unica chance di mettersi in aspettativa non retribuita. E invece in una incredibile grande macchina della solidarietà che si è messa in moto fra tutti i suoi colleghi di lavoro, ha ricevuto questo bellissimo regalo di Natale. 10 mesi di ferie solidali raccolte fra tutti i suoi compagni in azienda. Allora, un'azienda appunto veneta di circa 200 dipendenti e da quello che ha raccontato anche la responsabile dell'ufficio del personale che si è fatta promotrice di questa iniziativa, tutti ad uno dopo l'altro si sono recati all'ufficio del personale per cedere parte delle loro ferie. C'è chi addirittura, Nicoletta, senti, ha regalato solo qualche ora perché è assunto da poco e non poteva fare di più. Qualcuno che ha donato un giorno, chi addirittura una settimana, e complessivamente i suoi colleghi sono riusciti a raccogliere 198 giorni di ferie e l'azienda ha contribuito aggiungendo alla colletta un'ulteriore settimana. Allora, un'iniziativa che si commenta da sola, non bellissima. Ci sono parole per descriverla, però noi abbiamo pensato appunto subito di tornare a raccontare ai nostri ascoltatori come funziona questa modalità prevista dal Jobs Act. Allora, visto che lo vogliono sottoporre al referendum, speriamo che almeno questa parte non venga assolutamente messa in discussione, ci mancherebbe, lo sappiamo che sono altre le parti contestate dai sindacati, insomma questa era solo una battuta. Noi pensiamo alle cose belle invece di questa norma, a come funziona questo istituto delle ferie solidali. Ci aiuta a capirne qualcosa di più Giovanni Marcantoni, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti, della Fondazione Studi, appunto, dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Marcantonio, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Deborah e Nicoletta. Buongiorno. Allora, tra l'altro volevo anche fare un pochino di storia di questa, di questo istituto delle ferie solidali. È una idea, una legge che per la prima volta ha visto la luce in Francia, è la legge 459 del 9 maggio del 2014, quindi in realtà anche in Francia, che è un buon modello, è una storia molto recente. È nota come la legge Maty, dal nome di un giovane gravemente malato, ed è stata proprio presa a spunto dalla scelta fatta dai colleghi di lavoro di un papà che non poteva più assistere il figlio. Spontaneamente hanno messo a disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi, poi questa iniziativa è stata formalizzata in un accordo aziendale, successivamente diventata legge statale, stabilendo che i dipendenti possono donare in modo anonimo parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure. Allora, Marcantonio, questa è l'esperienza francese da cui l'Italia mi sembra abbia mutuato in maniera abbastanza precisa. Noi siamo arrivati un anno dopo, ci siamo arrivati però anche noi con il Jobs Act. Ci spiega che cosa contempla appunto il decreto legislativo 151-2015, che è proprio il provvedimento in attuazione del Jobs Act che ha introdotto questa norma delle ferie solidali? Certamente, è una norma che è entrata in vigore il 24 settembre del 2015, in particolare l'articolo 24, di fatto disciplina la possibilità per i lavoratori di chiedere a titolo gratuito i riposi e le ferie a colleghi che, diciamo, devono assistere figli minori che versano in condizioni di particolare necessità di cure costanti. Sostanzialmente è una forma di solidarietà molto, molto bella dal punto di vista appunto umano, perché dona un bene che è il tempo, sostanzialmente, e la possibilità di assistere questi minori. E di fatto questa possibilità è stata demandata in ordine alla disciplina e alla misura agli accordi collettivi, sia di livello nazionale che di livello aziendale. Quindi dal punto di vista tecnico certamente occorre un'attivazione aziendale che tramite un accordo possa disciplinare appunto questo tipo di cessione, certo. Diciamo, e anche la misura che possa essere fatta. Sulla misura, devo dire la verità, la norma è molto chiara, perché ovviamente fa salvo qualsiasi diritto minimo al riposo e alle ferie che diciamo sono disciplinate da un altro decreto e non di meno dalla Costituzione, perché di fatto parliamo della possibilità di cedere riposi e ferie eccedenti le misure minime stabilite per legge che spettano a qualsiasi lavoratore. Certo. E nella fattispecie ovviamente si parla di 4 settimane all'anno di ferie minime, che poi possono essere usufruite in modalità, diciamo, anche diversa, perché magari un paio possono essere riferite a un anno e poi possono essere usufruite le altre 2 rimanenti nell'anno successivo, e anche riposi, perché ovviamente un lavoratore prescrive la norma, deve riposarsi almeno 11 ore al giorno e 24 ore certo. consecutive ogni 7. Quindi in sostanza evidentemente faccio una sintesi, Marcantonio, un lavoratore certo. che ha nella norma 26 giornate di ferie annue potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie che obbligatoriamente per legge deve godere, quindi generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi. Corretto, assolutamente sì, perché ovviamente questo non può essere fatto in maniera diversa. Certo. Però il discorso è certamente centrato sulla azienda, e questo è un esempio che abbiamo appena letto e avete appena evocato, di un'azienda che si è attivata tramite un accordo, e quindi un'azienda che in qualche maniera ha trovato la possibilità di far cedere da questi lavoratori una parte dei loro permessi e ferie. Questo è un gesto molto importante. Vorrei sentire che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Hanno ancora 15 minuti di tempo per farlo all'800 24 00 24, anche perché la norma, Marcantonio, è molto recente, e se nel frattempo, per poterne teoricamente averne disponibilità, le aziende devono avere attivato anche questi accordi come ci diceva lei, appunto, sindacali, immagino, no? Certo, come certo. Deve essere reperito, come deve essere recepito, appunto, il meccanismo. Immagino che non tutte le aziende siano riuscite al momento a fare, appunto, a compiere questo passo. Andiamo quindi proprio un po' a spiegare anche gli adempimenti a carico del datore di lavoro. È chiaro che certo. Poi tu hai, come dire, l'idea che puoi far fruire di questa opportunità un lavoratore solo quando si scatena l'emergenza, e magari nel frattempo, anche se la legge lo prevedeva, non tutte le aziende abbiano portato avanti tutti gli adempimenti necessari. Ma appunto spieghiamoli nel caso in cui in questo Natale 2016 magari qualche imprenditore e qualche titolare d'azienda voglia mettersi a posto anche con questa disciplina. Credo sia importante perché effettivamente si parla anche molto in questo periodo di welfare aziendale, perché la legge di stabilità del 2017 ha spinto molto anche questo aspetto della parte aziendale, e quindi in questi accordi sarebbe utile già prevedere una disciplina riguardo appunto all'attuazione di questa catena di solidarietà sull'articolo 24, quindi quella potrebbe essere una sede. In sostanza, in pratica, il datore di lavoro si deve rivolgere ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e creare un accordo con essi dove disciplina appunto questa possibilità di cessione. Quindi di fatto è un accordo sindacale. A livello nazionale è stato fatto appunto con una contrattazione di primo livello, quindi che vale su tutto il territorio nazionale, dal contratto collettivo dell'industria chimica, che in data 15 ottobre del 2015 ha già attuato in parte questo tipo di delega. Quindi è un importante passo, è un segnale che credo possa essere dato a tutti i tipi di contrattazione, ripeto, certo. Sia a livello nazionale che a livello aziendale. La cosa importante poi naturalmente è che il lavoratore nel frattempo conserva il posto di lavoro. Mi faccia capire, il lavoratore che ha bisogno di fruire delle ferie solidali da parte dei colleghi non solo conserva il posto di lavoro, ma viene anche retribuito a stipendio pieno, come se lavorasse. Esattamente, proprio lì l'innovazione, la possibilità di percepire di fatto una retribuzione per periodi che singolarmente non sono stati maturati, quindi è proprio questa la possibilità innovativa, certo. Allora, ovviamente stanno cominciando ad arrivare le domande da parte degli ascoltatori su WhatsApp. Certo, la prima è se vale solo per assistere figli minori in condizioni di salute tali da richiedere un'assistenza. Infatti, e poi abbiamo nel frattempo, guarda, siccome è simile, ci metteremo insieme anche la domanda di Angela da Roma. Poi... E la seconda, se vale solo per il privato o anche per il pubblico. Partiamo da quest'ultimo aspetto, Marco Antonio, solo per il privato? Allora, la norma non lo cita sostanzialmente in maniera chiara. Io credo che si possa fare un discorso anche dal punto di vista pubblico, però è una questione un po' più complessa perché si discute sull'applicabilità del Jobs Act anche al settore pubblico, quindi questa è una situazione un pochettino più complessa da analizzare. Per quanto riguarda invece la possibilità di rivolgersi solo a figli minori, devo dire la norma è chiarissima nel rivolgersi solo a questo tipo di fattispecie di assistenza, quindi solo figli minori che diciamo sono in condizioni di salute tali da richiedere un'assistenza. Allora, infatti volevo pescare, ma vedo che dalla regia non ce la facciamo, la domanda di Angela da Roma, che voleva chiedere se la norma fosse applicabile anche per assistere persone anziane. Lì abbiamo tutto un altro istituto, Marco Antonio, che è quello previsto dalla legge 104, quindi 3 giorni di permesso mensili. La 104 si rivolge alle persone diversamente diversamente abili. Ma evidentemente anche per l'assistenza agli anziani esistono misure di welfare che possono essere attuate dall'azienda, che appunto può avvalersi della legge di stabilità del 2017, quindi anche qui la sollecitazione è rivolgersi alle persone competenti, perché effettivamente si possono concludere accordi aziendali anche per queste fattispecie. Allora, sono colpita da alcune delle osservazioni che stanno arrivando dagli ascoltatori, perché veramente il nostro è un paese fantastico che deve vedere sempre il negativo in tutto, e mi riferisco in particolar modo, adesso non so se riusciamo a metterli in onda, ma anche no, Susanna da Firenze, che vorrebbe dire è una norma che dovrebbe essere tipica di uno stato sociale di diritto. Adesso la sento, ecco, naturalmente poi prima lanciano il sasso, poi non vogliono parlare. Non era, in questo caso era Angela, appunto, sulla questione delle persone anziane. Non dipendere dal buon cuore dei colleghi. E un altro ascoltatore da Milano che dice: è una norma terrificante perché lo Stato ha delegato ai lavoratori una cosa che lui non è in grado di fare. Allora, come giudica questi commenti, Marco Antonio? Ma io credo che sotto questo profilo lo Stato abbia già dato molti strumenti per assistere. Aspetti che gliela faccio sentire, guardi, dalla sua viva voce. Susanna da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci diciamo, sembra una grande vittoria, a me mi sembra una grande sconfitta. Rispetto ai paesi del nord Europa siamo indietro anni luce, voglio dire. Per me è una sconfitta, perché voglio il discorso del buon cuore delle persone. Cioè, sì. Noi italiani abbiamo un buon cuore. No, quello è vero, ma lei che cosa dice, Susanna? Quindi se è lo Stato assolutamente che deve farsi carico di queste situazioni. In alcuni casi di queste situazioni, visto che le nostre buste paga, se le andiamo a vedere, io sono una lavoratrice della scuola, tornando alla buona scuola, ma lasciamo quella roba là, perdere un attimo. Io sono un'amministrativa che dopo 30 anni prende 1300 euro al mese. E questa cosa c'entra con l'argomento di stamattina, mi scusi Susanna? No, c'entra perché c'è un discorso di tasse. Se io pago delle tasse molto alte, e l'Italia le paga più alte a livello mondiale, io voglio avere dei servizi che non ho, purtroppo. Allora, quindi, vabbè, Susanna, mi scusi, questo ma dovrebbe rientrare sì, nei questo servizi, capito. Dice lei dice, Susanna. Vabbè, adesso qua dovremmo aprire veramente un'argomentazione un po' più ampia. Sì, un po' più ampio, perché si riferisce anche a uno Stato sociale che debba assistere dal punto di vista sanitario, oltre che appunto di assistenza. Qua si parlava di un'altra cosa, di una possibilità in più che mi rendo conto è stata recepita solo nel 2015, questo è innegabile, ma evidentemente è una possibilità in più che è stata data proprio per aggiungersi agli istituti che già la norma prevede per tutte le persone, certo, disabili o in che versione. Comunque no, tra l'altro si è acceso il dibattito, perché no, alcuni ascoltatori sono assolutamente d'accordo con Susanna e altri, ad esempio, come un ascoltatore ci scrive, quelli che lavorano in microaziende non hanno colleghi, sono di serie B. Ci segnala invece l'esperienza di un'azienda americana, già da tanti anni esiste questa forma di solidarietà nel donare le ferie ai colleghi in difficoltà, ci scrive Fabio. Quindi è un tema questo che divisivo come al solito, come tanti, sì, però veramente posso dire adesso una cosa, diciamo, velocissima sulle microaziende. Non è detto che per forza bisogna avere dei colleghi, può anche essere un datore di lavoro che con un accordo aziendale di propria volontà è lui stesso che dà dei permessi in più e delle ferie in più, e questo può essere fatto. Però guardi, rimango un po' basita onestamente, perché io non me l'aspettavo. Sarà anche che sono generalmente per molte cose, purtroppo, parlo anche a livello personale, Alice nel Paese delle Meraviglie, e mi stupisco molto di queste prese di posizione veramente che hanno voluto porre l'accento solamente sul fatto di uno Stato che non funziona. Invece io direi che sarebbe il caso di aiutare gli imprenditori a mettere in campo anche iniziative di questo tipo, dar loro la possibilità appunto di poterlo fare. Non capisco perché, se in un'azienda si attiva anche un meccanismo di solidarietà fra persone che lavorano insieme, magari condividono. Io e Nicoletta lavoriamo insieme 10 ore al giorno. Vivo con la famiglia, certo. Per quale motivo non dovrei avere questa possibilità? Invece no, devo dire di no, perché siccome è lo Stato che non fa, siccome io dalla mia busta paga pago le tasse, mi sono un po' crucianizzata stamattina, posso dirlo? Quindi salutiamo io Giuseppe, dico solo che Marco Antonio, è mi aiuti? No, perché veramente, quindi, sono molto colpita. No, cioè, a fronte di quella tragedia, se devo scegliere tra non avere una possibilità e averla, è meglio averla. Quindi questa è la prima posizione. La seconda è una possibilità, non è nessun obbligo. Io mi rendo conto che magari lo Stato sociale possa essere carente sotto certi profili, però è anche vero che un compito del legislatore è dare delle possibilità. Qua vi è una possibilità che può essere esercitata o meno, i giudizi sull'assistenza e quant'altro vuol dire che si rivolga a un altro tipo di istituto che è l'assistenza sociale, ma qua stiamo discutendo di un altro tipo di situazione. Ma infatti, no, poi tra l'altro guardi la possibilità di farlo. Anche una bella cosa, se andate a riascoltare le interviste, perché io non le ho riproposte tutte nel nostro contributo iniziale, sia al titolare dell'azienda che ha riconosciuto questa possibilità per questa mamma, sia alla responsabile dell'ufficio del personale che si è attivata per prima per fare questa raccolta virtuale di tempo di questa banca dati per questa donna, loro erano anche tanto stupiti di tutto il clamore che si è creato attorno a questa vicenda, perché dicono: ma signore, io ho questa naturale legge, ci è sembrato così naturale, ma veramente io ho una domandina da Gabriele. Se c'è accordo tra colleghi, il datore di lavoro può opporsi? Marco Antonio. Ma no, io questo deve essere disciplinato dall'accordo, quindi bisogna vedere l'accordo. Se ha fatto l'accordo il datore di lavoro, penso che abbia un orientamento, ecco, abbia un orientamento a voler dare questa possibilità. Anche perché di fatto il datore di lavoro in quel caso sarebbe solo obbligato a pagare verso un'altra persona anziché un'altra, quindi non cambierebbe la sua posizione. No, che poi qua c'è pure la malizia di dire che c'è gente che se ne approfitta, come se tutti fossimo contenti di aver figli malati a casa dei quali farci carico e di occuparci, no? Perché qua veramente la depravazione mentale delle persone arriva a certi livelli. Rinnovo l'invito ad andare ad ascoltarsi le interviste che abbiamo fatto in occasione della giornata delle malattie rare, appunto, con Teleton, di cui si sta svolgendo anche la maratona. Mamma mia. Un messaggio che arriva: siamo veramente dei beontoloni egoistici, nascondiamo dietro la scusa dello Stato che non c'è, ben vengano queste iniziative. Se ci fosse uno e l'altro, meglio, ecco, ancora, esatto, no? Per dare una colpa alla botte e l'altra al cerchio. Marco Antonio, stiamo andando verso la chiusura di questo approfondimento, ci sono ultimi messaggi da dare su questa legge per le aziende che ancora non hanno fatto i passi che devono fare, che cosa possiamo suggerire loro? Di rivolgersi alle persone competenti, ai professionisti, quali consulenti del lavoro come sono io, e ai sindacati per un'assistenza corretta. Le è capitato di seguire qualche azienda che volesse stipulare appunto un accordo aziendale per dar via libera appunto a questa norma? Personalmente lo suggerisco anche io nel piano welfare che andiamo ad attuare insieme ad altre novità che appunto sono la legge di stabilità ha potuto dare anche in materia di assistenza e di assicurazione per la non autosufficienza. Vi invito ad andare a leggere anche quelle norme perché nel 2017 ci sono molte novità in questo senso. Benissimo. Allora, direi che possiamo fermarci. Io ringrazio moltissimo il nostro ospite di questa mattina, appunto Gianni Marcantonio, esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Ma pensa un po' che piega ha preso stamattina il dibattito, veramente inatteso, inaspettato e anche un po' fastidioso, secondo me. Non so, forse io la vedo sempre... Adesso noi parleremo di altruismo. Mi metti tu di buon umore. Sì, parleremo di altruismo, è innato, si sviluppa infatti, invece crescendo. Perché alcune persone sono capaci di dare, ad alcuni costa così tanto. A tra poco. Alla borsa adesso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca. Per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Dai poco quando doni ciò che hai. Quando doni te stesso, solo allora dai veramente. Khalil Gibran, il profeta. Bene, dopo una storia, secondo noi, molto bella. Esatto, perché bisogna fare l'inciso, ecco, secondo noi e pochi altri. Cioè, una storia che a noi è sembrata perfettamente in sintonia col clima e lo spirito natalizio che vuole tutti più buoni, noi continuiamo a parlare di altruismo. Si nasce o si diventa altruisti? È una questione di geni, di ambiente, di educazione o che altro? Insomma, che cosa ci spinge ad aiutare gli altri e perché? Per alcune persone è naturale, per altri non lo è affatto. Perché alcuni sono capaci di commuoversi di fronte a un gesto altruistico e altri invece vedono sempre l'interesse o in qualche modo trovano sempre modo di lamentarsi. Salutiamo subito il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, con cui abbiamo deciso di condividere queste riflessioni a voce alta, cercando anche il supporto della scienza. Professore, buongiorno. Buongiorno, ben e bentornato. Trovato. Allora, professore, di solito una persona altruista viene descritta come una persona dal cuore grande. In realtà non è solo questione di cuore, ma anche e soprattutto di cervello, perché le ricerche hanno dimostrato che l'altruismo è scritto nel cervello ed è legato alle dimensioni di un'area in particolare. Quale? Dove si trova? Ci illumini, professor Barbanti, sì, così la localizziamo. È un'area che sta nel nostro emisfero destro e si chiama circonvoluzione temporale superiore, la sua parte posteriore, ma lei parlava del cuore, in realtà è quella parte del cervello che ci consente di sentire il cuore degli altri, è una parte del cervello essenziale per l'empatia, cioè per il sentire e il soffrire insieme. Tutto sommato essere altruisti ha un prerequisito, è sentire il prossimo. e le persone più altruiste sono in genere i bambini e le persone non agiate. Per quale motivo le persone non agiate? O perlomeno quelle, insomma, che si sudano la pagnotta, come si potrebbe volgarmente dire. Perché sono costretti, alludo agli ultimi, a sentire l'ambiente, e perché il loro destino dipende più da ciò che avviene esternamente a loro, tutte le variabili economiche e così via, rispetto a ciò che avviene dentro di loro, gli umori del momento, cosa che magari caratterizza maggiormente la persona piena di soldi. C'è da dire che l'altruismo è una virtù, a giudicare dai numeri, apparentemente in aumento. Gli americani hanno calcolato che nel 1953 l'1,9% dell'introito della famiglia andava in opere in qualche maniera altruistiche, ora 2,2%. La crescita non è elevatissima, ma sicuramente è una crescita. Siate egoisti, fate del bene. Ho letto proprio oggi in Metropolitana questo manifesto dell'Opera di San Francesco. Ah, sì. E sotto c'era: fare del bene è il modo migliore per stare bene. Per i pasti adesso. Professor Barbanti, è uno slogan che racconta tanto delle scoperte della ricerca. Siate egoisti, fate del bene. È verissimo. Pensiamo a due immagini di persone straordinariamente altruiste, Gandhi e Madre Teresa di Calcutta. Nei loro volti si leggeva non la fatica, ma il piacere addirittura. Gli studi di neurobiologia hanno dimostrato che il soggetto altruista ha una liberazione elevata di dopamina che, come diciamo spesso, è il neurotrasmettitore non della felicità, del piacere, quindi qualcosa che va oltre la felicità. E nel frattempo, nell'altruista, e questo forse è anche una predisposizione genetica, si silenzia l'attività dell'amigdala, che invece è un centro della paura e a volte dell'aggressività. E quindi essere altruisti per stare bene è proprio così. Nella neurologia, gli studi neurologici lo dimostrano nella maniera più capillare possibile. Professore, ma ci sono delle condizioni, delle situazioni che potrebbero attivare o al contrario spegnere quest'area cerebrale che lei ha localizzato? Penso a momenti della vita, ma anche a sostanze, farmaci, traumi, malattie, ma anche altre esperienze. Sì, sicuramente intanto le esperienze di vita, chi sia costretto da cause di forza maggiore ad abbassare molto i propri toni di esistenza, viene portato ad essere molto più altruista, così come alcune conversioni religiose e in senso lato la cultura. Ma c'è anche una condizione fisiologica che è la maternità. E la maternità induce un'aumentata produzione di ossitocina che l'ormone delle coccole, l'ormone proprio della vicinanza, della contiguità fisica, della carezza, del tenere vicino a sé le persone. È dimostrato in tutte le salse che una donna, dopo aver avuto i figli, non è più la stessa, in senso ovviamente positivo, anche sotto questo aspetto. Un altruismo sfrenato che va ben al di là della propria prole. Quindi altruismo ha un'area nel cervello, c'è un gene e ci sono anche degli ormoni che ci aiutano a essere altruisti. Insomma, siamo programmati per donare, per darci agli altri. La parola giusta è proprio questa: noi siamo sostanzialmente programmati, si pensi solo alla fisiologia della riproduzione, della maternità, siamo programmati a volerci bene, anzi a sacrificarci per gli altri. Se diventiamo un po' più piccoli però, se sentiamo maggiormente l'ambiente esterno, e un po' meno magari le nostre esigenze del profondo, che a volte sono un po' egoistiche. Quindi ossitoniciamoci da ossitocina, facciamoci le coccole. Stiamo. Grazie professor Barbanti, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. A presto. Allora, siamo quindi tutti donatori o potenziali donatori, anche se non ce ne rendiamo conto, anche se non vogliamo dare nulla o pensiamo di non avere nulla da dare, perché il dono, ce l'ha spiegato bene il professor Barbanti, è qualcosa che ci appartiene, forse perché l'uomo come animale sociale, quindi deve intrecciare delle relazioni. Allora vi chiedo, qual è l'ultimo dono che avete fatto? Quello che avete fatto così, di slancio, senza che magari ci fosse una precisa ricorrenza, solo per il piacere di farlo. Avete sentito impellente questa cosa e l'avete fatta. E che cosa avete donato? Tempo, regali, amicizie, ascolto. 800 24 00 24. Anna da Brescia, buongiorno. Buongiorno a voi. Io non so se ho attivato prima il cuore o prima il cervello. Sì, ma perché? Sono due che vanno in coppia, i due. Insomma, forse non simultaneamente, perché io fino a diversi anni fa ero totalmente apatica di queste cose, vivevo nel mio mondo e poi la vita mi ha mandato una perla di un figlio meravigliosamente disabile che mi ha aperto gli occhi, il cuore e il cervello. E nel momento in cui venivo isolata dalla mia famiglia, venivo invece avvicinata da dei volontari strepitosi, e io mi sono guardata intorno e ho detto: ma ci sono queste persone che mi donano con tanta generosità? E lì ho cominciato a elaborare tutto questo lavoro di restituire un pezzetto di quello che mi veniva donato. Oggi sono, oltre che una mamma realizzata con mio figlio, anche se gravemente disabile, una donna realizzata, perché il donare se stessi è una gioia infinita. E sia io che mio marito facciamo del volontariato a prescindere, qualsiasi cosa serva ci siamo. Non però nelle organizzazioni strutturate, diciamo. Sì. Abbastanza personale, ecco, come cosa. Allora, Anna, prossimità c'ha, col territorio. C'ha davvero regalato una sua testimonianza, un suo racconto che dimostra ancora una volta: saranno i neuroni specchio, sarà che il cuore si sintonizza. Ecco, non mi pare che abbia mai pronunciato la nostra amica la parola "lo Stato mi deve, gli altri devono fare questo per me" in un momento di grandissima difficoltà, addirittura. Perché poi è un piacevole contagio. Grazie. Ci sono forme di dono molto particolari, ci sono dei doni talmente preziosi da non avere prezzo, sono doni che spesso non mettono in contatto diretto donante e ricevente. Immagino già abbiate capito di che cosa voglio parlare, a che tipo di doni mi riferisco, ma vi do un aiutino, anzi ve lo faccio dare da un amico di Cuore Denari che abbiamo in linea, Aldo Zino Caligaris. Ciao Aldo. Buongiorno. Aggiungi tu il tassello, parliamo di una forma di dono che, così ci completi le caratteristiche in modo che i nostri ascoltatori si attivino subito, ma già a pronunciare il tuo nome io so che ci sono tanti ascoltatori già che ti conoscono per Grazie. Il tuo impegno e il tuo ruolo. Aldo. Allora, è un dono anonimo perché non sappiamo a chi va, è un dono responsabile perché è fatto con grande consapevolezza, è un dono non remunerato perché non provvede alcun ritorno economico. Stiamo parlando del dono del sangue. E intanto che Aldo Zino Caligaris parlava, sono già arrivati dei numerosi messaggi di tanti donatori. Intanto vogliamo presentarlo: il presidente nazionale FIDAS, coordinatore pro tempore di CIVIS, che è il coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue. Ascoltatori che ogni volta che parliamo della donazione del sangue, si attivano per portare anche la loro esperienza. Aldo. Dunque, interessante molto lo studio del professor Barbanti che ci ha presentato prima, che in effetti si collega con il fatto che la donazione del sangue è un gesto sì volontario, gratuito, anonimo, fatto verso qualcuno che non conosciamo, ma è un dono che comunque fa bene anche al donatore, intanto proprio per un discorso di ritorno a livello etico e a livello proprio di responsabilità del gesto compiuto, ma poi anche perché attraverso la donazione il donatore segue un percorso di controllo del proprio stato di salute e quindi ne ha un beneficio da un punto di vista di prevenzione e di attenzione alla propria salute e ai propri comportamenti. Intanto, attività volontaria gratuita svolta da alcuni cittadini a favore della collettività, dei malati, dei bisognosi, inizia così con la definizione di volontariato, il post del Daily Lab a firma di Ines Seletti, di che vi invitiamo, Deborah, il nostro Daily Lab, che vi invitiamo a leggere. Il tuo, che l'hai fondato, porti avanti con grande tenacia. Perché ci piace che ogni giorno i nostri ascoltatori possano leggere un consiglio, un pratico oppure uno spunto per riflettere, per stare un po' insieme. Allora, ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Altruismo, empatia, bene, volontario, queste sono le parole su cui ci muoveremo in questa ultima parte di trasmissione insieme ad Aldo Ozzino Caligaris. Tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento Cuore e Denari. E siamo ritornati insieme, in linea con noi Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale FIDAS e coordinatore Pro Tempore Civis, il coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue. Aldo, siamo partiti da una storia di un dono di tempo e adesso parliamo della donazione del sangue, perché anche donare è un dono della ricerca, Aldo, perché è proprio grazie ai progressi della medicina che si possono fare trasfusioni, trapiantare organi, tessuti e cellule staminali. Certo, a proposito certo. Di ricerca che va sempre sostenuta. Sì, poi proprio in questi giorni è in corso anche Telethon. Sì, l'abbiamo ricordato. Importanti e comunque è importante ricordare come tutta la medicina dei trapianti non esisterebbe se non ci fosse il dono degli organi e dei tessuti, come tutte le cure in ambito ematologico avrebbero scarsissimo successo se non ci fosse la donazione delle cellule staminali ematopoietiche midollari e di quelle periferiche e di quelle cordonali, e queste sono importantissime, sostenute da grandi realtà di volontariato come l'ADMO. E comunque come poter garantire gli oltre 8.500 eventi trasfusionali che ogni giorno si fanno in Italia a supporto della medicina, della chirurgia e che provengono esclusivamente attraverso il dono volontario del sangue. Cioè, quindi ricerca, assistenza, cura dei cittadini, terapia trasfusionale con emocomponenti, con medicinali plasma derivati, si possono ottenere soltanto attraverso questa partecipazione responsabile dei cittadini che con un dono veramente gratuito e anonimo riescono a sostenere i bisogni di altre persone meno fortunate, che per poter vivere hanno proprio necessità di queste terapie. E di questo sono consapevoli i donatori abituali. E questo pensiero anche dovrebbe spingere sempre più persone a diventarlo. Aldo, questo è un salto di qualità. Vogliamo fare un appello? Eh sì, beh, un salto di qualità che intanto deve vede oggi e sempre, come sempre, il nostro forte ringraziamento per i donatori che comunque devono rispondere al bisogno di donare ciò che serve quando serve. Secondo una donazione programmata in accordo con le associazioni, con i servizi trasfusionali, con le istituzioni preposte, centri regionali sangue, il centro nazionale sangue, al fine di dare per gruppo sanguigno e per emocomponente il tipo di dono migliore che può essere ben utilizzato e quindi non sprecato, perché sarebbe gravissimo sprecare un gesto di volontariato così prezioso e darlo proprio quando serve per chi ne ha bisogno. Tu infatti hai sottolineato, scusami ti ho interrotto, ma poi figurati, tu hai sottolineato programmato, invece si sentono, abbiamo sentito in diverse occasioni di fronte magari a delle emergenze, i cittadini che si organizzano autonomamente. Ecco, allora la spontaneità del gesto della donazione volontaria è importantissima, perché comunque il gesto è sempre un gesto volontario, ma per essere ben utilizzato, per non rischiare di diventare una risorsa che magari in quel momento per un'eccedenza di raccolta, come avviene per esempio in eventi di grandi situazioni drammatiche come l'incidente di Trani piuttosto che i terremoti, c'è questa spinta emotiva che probabilmente porta le persone a sentirsi doverose, sentirsi nella necessità di fare qualcosa per gli altri, e quindi donando il sangue sono convinte e fanno bene a fare questo gesto per poter partecipare al dolore, alle sofferenze, alle criticità ovviamente di chi soffre quei momenti di disagio. Però tutto quanto deve essere ben incanalato in un'azione di programmazione per non rischiare di diventare poi un dono che non possa essere portato a termine, cioè per non essere utilizzato, e questo sarebbe gravissimo. Noi spingiamo i nostri donatori appunto a donare in maniera corretta, in maniera responsabile, ma secondo quella che è una necessità programmata sulla base dei bisogni assistenziali dei cittadini, che è normale quando si fa la routine, che è gestita con le maxi emergenze, con le emergenze, secondo dei piani programmati, previsti, concordati con le istituzioni, quando accadono purtroppo anche eventi drammatici. Molte persone si autoescludono, Aldo, dalla donazione. Penso a chi è un po' anemico o con emoglobina ai limiti inferiore della norma o con ferritina bassa. Ma anche in questi casi non si deve rinunciare. Poi c'è chi rinuncia perché ha paura. Esatto. Ma parliamo da salutiamo chi salutiamo Francesco, infatti. Poi arriviamo anche a Francesco, perché è importante. Volevo sottolineare nell'ultimo minuto che non si può donare qualcos'altro oltre al sangue, Aldo. Sì, per chi ovviamente ha dei requisiti fisici che non consentono la donazione del sangue, valori di emoglobina o comunque condizioni di disponibilità di ferro non sufficienti per poter garantire un ricambio diciamo tranquillo e dopo la donazione, e si inviano questi donatori verso una donazione di plasma, che è una donazione mediante aferesi, che sottrae al donatore soltanto la parte liquida del sangue, quindi non togliendo i globuli rossi, le piastrine, ma che comunque attraverso la donazione del sangue garantisce la disponibilità della materia prima per poter produrre i medicinali plasma derivati, che sono altrettanto importanti perché costituiscono medicinali come l'albumina e le immunoglobuline, fattori della coagulazione, che anche questi sono indispensabili per la vita, per la salute, per la cura di tantissimi cittadini. E quindi invitiamo i giovani in particolare, le donne, ma tutti coloro i quali appunto magari vorrebbero donare, ma le cui condizioni non possono garantire una donazione di sangue sicura per se stessi, perché il primo punto che noi dobbiamo tenere presente è la tutela del donatore, comunque a prendere in considerazione le donazioni attraverso aferesi di plasma o eventualmente anche di piastrina. Aldo, sono un pochino più lunghe, richiedono un pochino più di tempo, dobbiamo avere una maggiore disponibilità. A proposito di tempo, che è così prezioso. Però il dono del tempo, in questo caso unito al dono del sangue, rende ancora più preziosa quella donazione, che comunque è sempre sostenuta da una forte motivazione solidaristica e umanitaria. E quindi non credo che i donatori, i nostri donatori, 1.700.000 donatori del nostro paese, si sottraggano a questa disponibilità, perché cosa è 20 minuti rispetto a una giornata, rispetto a un mese di lavoro, rispetto a tante altre attività, quando sappiamo veramente che donando ciò che serve quando serve possiamo essere utili per gli altri. Abbiamo Rosalba da Milano, rapidamente prima di chiudere. Rosalba, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Anche perché Rosalba è il nome di una delle amiche più care di Deborah, come potevamo non lasciarla intervenire. Rosalba, allora, rapidamente. Vi ascolto. Sì. No, io l'unica mia testimonianza è questa, siccome io ho un gruppo zero negativo, sì, quindi molto richiesto, assolutamente io quando vado a donare sangue, che mediamente lo dono 3 volte all'anno, io poi mi sento benissimo, cioè al di là del fatto che ho fatto un gesto assolutamente altruistico, ma io sto proprio bene con me stessa, perché mi rendo conto appunto di aver fatto un'azione comunque assolutamente positiva e utile, ecco, solo questa è la mia testimonianza. Grazie Rosalba. Aldo, un ascoltatore ci scrive, si può donare anche se sono in cura con pastiglia per l'ipertensione? Dunque, ci sono condizioni dove alcuni farmaci per l'ipertensione consentono la donazione del sangue. Ovviamente vanno valutate le condizioni generali, i valori della pressione, va valutato comunque il fatto che la pressione non comporti danni d'organo, la sostanza ovviamente assunta, e tutto questo deve essere valutato ovviamente dal medico selezionatore, considerando che in Italia, unico paese in Europa, affida l'idoneità, la donazione, quindi la selezione del donatore, è un atto medico, e quindi questo proprio nella tutela innanzitutto del donatore, che se ovviamente, anche se in terapia, non ha problemi per se stesso e per il ricevente, per la, ovviamente la raccolta poi della materia prima, la standardizzazione dell'emocomponente raccolto, ovviamente può essere valutato per una donazione di sangue. Non c'è tempo per affrontare un discorso più ampio, che è la donazione di midollo, di cui parleremo prossimamente. Saremo una puntata ad hoc. Aldo, intanto grazie per essere stato con noi, e buon Natale. Grazie anche a voi, a tutti i radioascoltatori, sempre grazie per il vostro lavoro, la vostra disponibilità, la vostra attenzione per il tema appunto del dono, non solo del sangue, degli organi e delle cellule staminali midollari. Grazie, allora noi torniamo lunedì. Salutiamo Marco, Laura e Paolo oggi in regia. Ma dai, torniamo lunedì. Siamo generosi. Perché è Natale. A lunedì.